Friuli nel mondo, 241esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, Giuseppe Marchetti. La biblioteca dell'Istituto Magistrale Caterina Percotto di Udine è stata intestata nei giorni scorsi al compianto professor Don Giuseppe Marchetti, immaturamente scomparso nel maggio 1966, che in quella scuola svolse per lunghi anni la sua illuminata attività di docente. Maestro nel senso lato della parola, non solo nelle discipline letterarie, ma in ogni campo del sapere e dell'arte, il popolare pre-Bepo, come confidenzialmente lo chiamavano discepoli e amici, può essere considerato una delle figure di primissimo piano nella rinascita friulana dell'ultimo dopoguerra. Appassionato di storia, di filosofia, di arte, di lingue, di poesia, di letteratura, si fermò in modo particolare a studiare questa nostra terra friulana e a scriverne con chiarezza e competenza inarrivabili in opere poderose e conosciutissime o in articoli disseminati sulle riviste culturali nostrane e internazionali. Con la penna, talvolta felicemente aiutata dal pennello, descrisse in italiano e in friulano magistralmente le piccole e le grandi cose del nostro passato e del nostro presente, con critica severa, con eleganza, con schiettezza, con amore. Maestro, seppe trasformare in tanti giovani la passione del bello e del vero, la serietà della ricerca, l'amore a questo nostro Friuli e a questa nostra lingua friulana e insieme, prima ancora, l'attrattiva e la rettitudine d'ogni più alto ideale. Gli scrittori di Risultive, le sue creature, a pochi mesi dall'improvvisa dipartita di Giuseppe Marchetti, ne rievocarono la cara figura in una commovente trasmissione da Radio Trieste. Ma oggi, prima di offrirvi la lettura di alcuni squarci di sue poesie e di saporite prose, ascoltate, cari emigrati, nella caratteristica parlata di Navarons, queste espressioni di devoto omaggio di una sua allieva, la scrittrice Novella Cantarutti. Al mi faceva paura pre-Bepo a scuola, parce cal saveva di tut e si sentiva, bel canai schierin, cal fevelava col suo chiav e con la sua anima, d'una maniera che discoloriva gli idei sprovvisori e attirava gli ugent e eti d'un disegno precis, l'arc, dispoea di duce cano conta. A mi pareva cal minucciassi il suo save espert col gust chi potesse imbecalu come ucei e canal tignes la sua scienza custodita come un pan di oro da mostrà e no da via, come che fa in tanchio di lor. Maestri, i disevi, come che non mi capita rapida conoscenti unati, paron dal Friul e dalle sue robi bieli, dalla storia e dalla lenga, di tutto un patrimonio sburit foru, studiato e ordenato con passion e con una pazienza mai straca, che appareva di botti in contraddizione, culom che l'era lui, così poco adatta gli si capit, come a quei toglia simpli a cui cagliesi da chiareada strenta da gente di ogni dì. Al mi pareva pre-Bepo come un cret e li so passion fati di che materia stessa e il suo fa ruspiu fradi di che i barazz caplati in rosi dai passons magris dagli nestri monz. Ed ascoltiamo ora il nostro pre-Bepo in questi versi amari ma racchiudenti una punta di fede e di speranza. Il chiar mat. In son pilcil all'us un trop di stelis che incantin anche il voli più distrat e son li siet più grandi se più bielis e ovincur di clamalis il chiar mat. E vad in vie cidinis per lor strade come tanti spulzetis di sestin e spandin la lor luz in darindade che emple di lirie che il mar turchin. Non sbaglin di un minuto il loro orari, non piardin mai di viste il loro temon, non mudin par caprizi itinerari, non si sbandin, non fasin confusion. Fossi e che biele calme in che stetiare, fossi in che smont la paz che regne lì. Chialin sia tor, la verità ti è clare, non le chel il chiarmat, a le che st chi? La vin piardude no, la tramontane, e o si chiatin a navigata al scur, cumò se olin tornate strade plane, chialin lassù, e la chiatarin di sicur. È un filiale, toccante abbandono di riconoscente sentimento verso la madre, la breve prosa che ora vi sarà letta. Ame Mari. Donne Mari, che ste volte mi è saltate la moschia di dausi il bonan su palsfuei. Non l'aveis pur no par mal. E usaldoi condutti il cur e la fied di un fi che non le plui un frut e cal s'impense e al sa misura duce cal avu di vo. Non mi veis dadis di scomoditaz e contents dai siors, né sfigotez des miegi sveladis, né il velen e la grinte dei puors invidios e bondinuie. Mi veis tirat su cence fotis, cence sberlis e cence caprizis. Mi veis fat diventa un om cal salape so strade e un furlan che nol bastarde la sorazze. Di tut quest us varai agrat fin tremai covarai flat. E usai agrat anche di tanti srobutis che putros di lor non san avon d'estima. Di ve mi metut non bepo e no lidio o melampo. Di ve mi insegnata fevela par furlan e no par slimi. Di ve mi nutriti in libertà e no sotto une chiampane di veri. Di ve mi industriata a lavorà e no a fa il bulat. Di ve mi lasat cresi piuttosto ruspi che no lecat. Di ve mi usat a chialai faz e no li speraulis. A chialami denant e no a chiamina war. E no il contenuie se qualche volte o spons, se o strusi, se o pesti la code a cui che la strisine. Se odoi di come don a cui calcir d'intardami o d'imbolognami o d'imbosemami. Al conte un'evore covevi chiapade une dreture, une sgrimie, una volontà di cori sugli slinis dal just e dal ver. Al conte un'evore che nessun vebi anchimò potut comprami a buon presi, né fami mudà gabane, né chiapami in chiastine, né butami in ghigne une carognarie. Di lui li che mi basti sempre la farce di vivi, come che vo mi vesi in stradat, parce che qualche volta si sclope con tante morti che venta il pis. Bonan, donne Mari, in salute e di ueli in sante pas, o vignarai a chiataus più di spesco podarai, che ogni volta come gli di che schialderon di città mi par di ricreami e torna gnuf. Arriviò di sincurt, vuestri prebepo. L'autore, con commovente richiamo, ci fa riaccostare nella notte dei defunti ai nostri cari scomparsi. L'agnot dai sans. C'è scur us gnot, un scur fisse e pesant che quasi al fas fastidi alla indenant. E ti par di palpalo e che disfate qualche anime e svolite fumate. E sun in la lor liende li schiampanis e son lidonge e parin tan lontanis, con che lor vos che preva int, e il bot si slardia plank, tan penze e gliela gnot. Tirin sin chiase, il fogolar nus clame cu la luce e il calor che fas la flame, ma ci mutese mai, e mur in gole la peraule, si tas e si pendole, e veni in su dal cur, tutti i riquarz dai nestri sviei di chiase che son muarz. Al parares di dì che van a torpe strade, a scur, ci rind la chiase lor. Non si alza il saltel? Non hai cricat la puarte? Qualchidun la die si entrat. La none, il barbe, il fradi muarti in uere e torni in duccia a chiase che ste sere. Si tirin d'onge e ognun al ciri il luc là che i plaseve sta vicin dal fuc. Il nono al pense dute la famè sumo il rosari e al volte la chiadre. L'ironia, il brio, la causticità di Prebepo traspaiono in questa lezione di costume che egli ancora intende impartire a coloro che disdegnano nei comuni conversari l'uso della parlata friulana. È una lettera aperta, affidata ad un giornale, al quale lui pure collaborava, e indirizzata ad una sconosciuta signorina. Lettere a une fantacine. Sciorute, che mi perdoni se scrive anche a ie culi sul sfuei. Io non la conosco. Non sai ce che a non, non sai du la che sta, non sai nuie di nuie sul suo conto. O hai nome Lampadi, da ur parsore il schenal di une sente dal treno la sua chiaveade bionde. E vai sintù de une voce di rusignul che girlave legre chiantarine, intant che il vapor al coreve sui chiams viestus di viarte. E di tut che il viaz mi restade dentro vie, nome la gionde dai voi che si passevin di quel spettacul de metiare in flor, e la musiche murbinose de so vos che mi zornave da ur a une spane de sorelis. E zornave par furlan, queste nestre benedette lenghe e saradure, se ven fur dal gargat di un sdarnali, vilan che la rute cum male grazie, e sarà slambrade sulla bocce di un fantaciat che la inflore di blestemis, e sarà fastidiose se la fevele une babate petezzone, e sarà ridicule come che la quincin che i dordei che le han disimparade. Ma come che lo hai sintù de io a cinglinar ridint, rampide, tanche une ploe d'arin sui sei lavris, non die un'altre che i va di pardoglie. Andiere tante intin che il scompartimento, mulaz che tornava in disquele sbergelant in tuntalian di ladrons, umin di affars che fevelonava in telenghe pui misclice che si può disintis un tummartiat, sioris e spuzetis che dispecolava in furlis los gnagnaris, une Babilonie di che biade umanitat che si ten malapaiade dal suo iesi. Ma io non sentivi altri che la sua voce moscardine che mi chiantava da urli spalis. O hai capito dal suo discori che ha divè stata a scuole e viazzat pal mont e conosciut e let e viodù tal che c'è. Ma non mi interessava neanche tance che diceva o ieri incantesemat nome a sintice mut che i filavin di bocche li speravli scletis, iustis, scieltis, tarondis con quel fregenin di genghe che li stignive le adis e li spleava da ur dal discors tant che un'egale di sede. E ogni tant un'erridate curte tant che un chianta di gri. Aliere, invece che il savaleti di vos bastardis e slavradis, come a sintì un fil di bueresine tal schiafoiaz de canicule, come a viodi un riulin di risultive d'ogni un grum di scovazis, come un'erraiade di soreli tal mies di un burlaz o un'estelute d'arint in tunegnote di chialin. Aliere un flad di semplicità, di scletezze, di modestie e di verità in tune fumate di artifici, di stupiderie, di fente, di simiez, di maniere studiadis e falsis, un sgrisul di paronance di personalità in tun stofà di servilism e di meschinità, un evene di sang civil in tun sac di paltan. E quando che ie dismontate si orute, io non mi soi voltata a chialale. Di pure che Salacor al si dissipasse il mio inchiant, ma o soi restata lì, in che l'infiar, come un che di biel misdì al piar di la luz dai voi. Che mi perdoni, se scrivin mi soi schialdato un fregula laudale, non mi capite di spes, ma ie salmerte. Con questi brevi saggi abbiamo voluto anche noi modestamente unirci nel riconoscimento che la sua scuola ha tributato a Giuseppe Marchetti, il quale rimane come poeta, narratore e maestro nella nostra vita e nel tempo più intenso del nostro Friuli. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.